alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Quinta puntata. Ormai le amiche fiorentine, pur continuando quella specie di assedio, si intrattenevano fra loro con una disinvoltura che rassicurava Artemisia sul suo trespolo e quasi la dichiarava assente. Ma dai guanti, dai profumi, non c'era giorno che sul motivo ricorrente degli impegni domestici il discorso non si fermasse sugli uomini di casa, gli uomini di fuori, e subito le voci si scaldavano. Si cominciava magari dall'alto. Il Granduca Buonanima, i principi forestieri e quelli nostrani, ognuno veduto da occhi acuti e guardinghi, non all'aperto con l'arma e il cavallo, ma seduti fra quattro mura nell'atto del bere e del mangiare, soprattutto dell'andare in collera. E gli esempi le riportavano in casa. Quello urla, l'altro bestemmia. Che occhi fa Tommaso, la grinta di Vieri. Dominavano le voci represse e concitate delle due torrigiani, che finivano per dire più di quel che non volessero, e gettata la freccia erano pronte a coprirsi con lo scudo dell'amor coniugale. Ma intanto ognuna aveva fatto il nome del marito dell'altra, offesa o servizio che si rendessero a vicenda. All'aperta beffa si lanciava Violante, la più libera, impareggiabile nel rappresentare la brutalità virile unita alla balordaggine e la facilità con cui si rabboniscono i sospettosi e gli iracondi, con la malizia, con le carezze, con la paura. E quando tutti avevano riso, ultima la povera Caterina, anche l'Orsini che ammazzò la moglie aveva paura, citava Violante, un tantino stridula. Allo scherno succedevano racconti di sevizie segrete e leggendarie, con fantasmi di mogli claustrate, avvelenate, fatte sparire senza lasciar traccia. Fantasmi che parevano mescolarsi al gruppo delle viventi e insinuarvi uno stimolo di vendetta che eccitava le narici insieme all'odore della trementina. Di tratto in tratto, occhiate rapidissime e taglienti sfioravano Anastasio, il modello, e l'oltrepassavano luccicando. Poi le donne gli volgevano le spalle, mostrando ricordarsi all'improvviso affettuosamente della pittrice, della pittura, si accalcavano a constatarne i progressi, ad ammirar a modo loro, come di seta il lenzuolo. O Oloferne era principe. Il sangue della gola è più nero. Così si tiene il pugnale. Io non saprei colpire. Io sì. Io vorrei provarci. Tutto quel sangue. Ritornavano sempre al sangue che Artemisia dipingeva, una carneficina tessuta rivo per rivo come un ricamo sul biancolino. La luce calava, il crepuscolo scendeva sull'Arno, un crepuscolo verde, e Artemisia stirava le braccia come se fosse sola. Ristretta ai quesiti della sua pittura, incomunicabili alle donne, divideva tuttavia con esse una noncuranza del contegno che la familiarità non giustificava e che era il frutto dei discorsi raccolti a sbalzi, distrattamente, ma non senza un oscuro senso di complicità. Le sciocche dame non si accorgevano di chi fosse la truculenza che sulla tela Giuditta aveva principiato a scoprire. Di buon'ora e sola Artemisia aveva cercato nello specchio i tratti dell'eroina e le aveva risposto un ghigno che ormai antichi motivi ispiravano, non più nobili, non più puri di quelli che la vedova Violante coltivava e nutriva intorno a sé. E la ragione la sapeva lei sola. Agostino, il pugnale, la miseranda scena del letto a colonne, avevano trovato la via di esprimersi, non a parole o con interiore compianto, ma con mezzi che la mente avrebbe dovuto difendere e mantenere inviolati. Ecco perché Artemisia si sente colpevole più delle torregiani e di Violante. Il suo gesto nel congedare Anastasio è brusco, evasivo. Intanto un'immensa fierezza le gonfia il petto, un'orribile fierezza di donna vendicata, in cui trova luogo, malgrado la vergogna, la soddisfazione dell'artista che ha superato tutti i problemi dell'arte e parla il linguaggio di suo padre, dei puri, degli eletti. Ma suo padre non torna da Pisa. Lontano è il suo amico fratello Francesco, e con quei signori di Via Larga, i garruli pittori di Firenze, il puro linguaggio d'intesa si convertirebbe in servo galante ruffiano. Soltanto con se stessa, sulla tela, può parlarlo, e le risponde insieme con l'artista la giovane Artemisia, avida di giustificazione, di rivincita, di comando. Comandare almeno a queste donne, trasmetter loro il proprio rancore, è una tentazione, e la facile riuscita è pure un trionfo. Un trionfo solitario, con tante amiche introdotte in corte. Artemisia passa le lunghe sere di giugno sola, sul balcone che quasi tocca il fiume, incantata dell'acqua verde, dei ponti su cui la gente cammina e chiacchiera, delle tante campane. Sbadiglia, respira, sospira. Un anno fa non osava aprire la finestra a San Spirito. Oggi, dietro Giuditta e Oloferne, prende corpo la figura di una donna eccezionale, né sposa né fanciulla, senza paura, in cui le piace riconoscersi, accarezzarsi, spronarsi. Da troppo tempo le mancava questo essenziale motivo del vivere, questa compiacenza di sé, forse dai giorni che Cecilia Nari la vedeva balzare dalle fratte del Pincio verso la sua finestra. Era mattina alta quando diede le ultime pennellate al gran quadro. Questa volta le amiche erano accorse con l'occasione di festeggiare il termine dell'opera che, fra giorni, sarebbe presentata ai Serenissimi. Non stavano fermi un minuto, vestite con più gale del solito, talché i loro corsetti trapunti, i loro ricami rigidi e i puntali e le garze fremevano come antenne di insetti irrequieti. La luce chiara, dorata, il riflesso tremante dell'acqua sul pavimento parevano sciogliere le malizie, i sottintesi, sollecitavano a un gioco sincero. Il lino bianco dipinto suggeriva il bucato, e il sangue non formava più che gioiosi nastri di porpora quando Anastasio entrò. Veniva per l'ultima posa di controllo e quietamente si sdraiò nella solita posa affaticata sulla sua cuccia. Lo fece con tanta discrezione che le donne, a un tratto, lo videro risorto al suo posto, quasi per magia. Ci fu un silenzio, e la pausa dei moti fu davvero un'attenzione di elitre prima dello scatto. L'allegria rimase sospesa e un senso di vuoto e di pericolo colse Artemisia alle spalle e la fece voltare. Già Violante era alla finestra, accanto all'uomo. Non aveva mai osato tanto. «Bisogna colpire qui», disse con voce cui il riso recente non concedeva che un tremito di malaugurio, e appuntava un dito marmoreo e nocchieruto dall'unghia quadrata sulla gola dell'uomo, il quale, da riverso che era al modo consueto, con uno sforzo goffo si raddrizzò di colpo. Per quella mossa sgangherata Violante fece un passo indietro, ma le altre si avvicinarono. I rozzi panni scomposti e la pelle bruniccia sotto cui la muscolatura appariva spropositata, quasi ridicola, confermarono con un istinto di repulsione un minaccioso diritto di padronanza. «Gli uomini non si lavano mai, neanche i cavalieri», latrò una delle torrigiani, e Giovanna rise. «Tutto quel pelo, pettinarlo a riccioli, spartirlo con nastri e perle. Levagli il parruccone, vogliamo acconciarlo a modo. Chi fa la Giuditta?» Orribilmente affascinata, Artemisia vide, dal fondo della stanza, lampeggiare sulla schiera di femmine una lama sottile, e la teneva Caterina, stretto il pugno di morta, dormente il molle viso e sulla fronte bassa una tensione senza rughe. «Rivestitevi, Anastasio!» urlò la pittrice. Il gigante, che pareva cercar scampo in un sorriso sciocco e servile, riacquistò l'uso delle membra e bastò il gesto con cui raccolse il gabbano e lo infilò perché il mitico assalto si sciogliesse come neve al sole. Scomparve il pugnale. Le dame si ricomposero, passando senza transizione, quasi senza memoria, alla sfrontata disinvoltura di educante colta in fallo e già provviste di un contegno da ritratto. E Lucrezia Torrigiani ebbe la pupilla ferma e la fronte deserta di una sua ava dipinta dal bronzino, mentre all'aspra Violante non fu bisogno neppure un gesto perché l'acconciatura vedovile le ricadesse a piombo intorno alle gote, chi in piedi, chi seduta, le vesti armoniosamente fluenti. Soltanto Caterina, busto inclinato verso il grembo, non smetteva di asciugarsi le mani sudate al fazzoletto orlato di trina. La finestra, male assicurata, s'era aperta. Soffi di brezza muovevano per la stanza un lieve tanfo di acido sudor femminile. Scappo, scappo che è tardi, fece Giovanna impacciata e volubile, inventando di risolvere alla brava un'inquietudine comune. Disprezzandola per la mala grazia, ma contente dell'occasione, le altre si alzavano e uscivano a una, ma con studiata lentezza. Parve che mai si compiacessero più a lungo del fruscio dei loro broccati. Uscirono dopo aver baciato in aria il simulacro della guancia di Artemisia, e ancora una volta Artemisia fu sola. La vendetta era consumata, scontata la lunga vergogna di Roma. Gli uomini ritornavano uomini, seppur distanti, incomprensibili fantasmi. Padre, marito, amante. Poco meno che nomi, ma il primo amato e desiderato invano, l'ultimo dissolto come un corpo nella terra. Ne discendeva oramai una disposizione elegiaca che non aveva più bisogno di raccontarsi, ma che delle parole altrui si giovava con simpatia segreta. Presentata alla Giuditta, ha avuto nel compenso e le lodi cortigiane, il caldo piombò sull'Arno e ne fermò il corso, putrido, fra le gualchiere. La corte in villa, le dame in villa, e pareva che della Giuditta, abbandonata a palazzo nella sua cornice nuova, nessuno dovesse più parlare. Anche il desiderio di successo e di fama sembrava consumato, esaurito, né il pensiero d'una vita lunga, di nuove splendide occasioni, sorgeva a solleticarlo. Dai sopori di una vita al buio, nel pianterreno umido, Artemisia tendeva gli orecchi agli accordi del virginale di Arcangela, la virtuosa di corte, che si esercitava nella casa accanto. Calata la luce, Arcangela scendeva. Le due giovani si chiamavano a raccogliere dal fiume un alito di frescura e la cantatrice parlava del suo amore. Era un amore senza volto, né fine, né speranze, illustrato da nebbie e nevi, un gran fiume, barche con musicanti, danze sull'erba, come per incidenza un nome sottinteso in ogni virtù virile e umana, valore, temperanza, rispetto, bontà. È un'invenzione, pensava Artemisia, non mai stanca di ascoltare la pallida mantovana dal naso sottile, dalla voce così spesso roca che aspetta di guarire. Provo questo segreto della gran duchessa vecchia, la voce mi torna di sicuro, per Pasqua canterò il Magnificat a Sant'Andrea. E Artemisia, con gli occhi ben fermi nel buio, sotto un velo di lacrime, a sperare che il rimedio operi, che Arcangela risanata torni a cantare sul fiume, fra cavalieri integri, splendenti, generosi. Non occorrono pugnali lassù, né maledire d'esser donna, né comandare una bestiale connivenza di femmine. L'amistà vi regna, senza peccato né sotterfugio, e se ne può parlare a lungo, come fa Arcangela, fra un colpo di tosse e l'altro, in delizia. Nella notte, in gran parte vegliata in attesa di un clima che consentisse il sonno, l'aria, sotto e sopra, era piena di sussurri, voci vicine, lontane, qualche accenno sommesso di canto, un alveare invisibile. Poveri lanaioli e meccanici dal tugurio infuocato vegliavano, come le due giovani, sulle prode dall'erba riarsa, sulle altane, su barchette che sciacquavano di tratto in tratto per un sonnolento colpo di remi. Gente umile, sconosciuta. E anche questo era un ristoro, una benedizione, sentirsi pari, almeno nei disagi del corpo, a uomini e donne che respiravano insieme, senza offesa reciproca, quella poca umidità dell'Arno. Ascoltava Artemisia e perdonava. Spento ogni rancore, le pareva di stendere la mano verso la violenza pentita. Lei, forte e senza armi, e gli uomini, questi fatali nemici, non le chiedevano più di giustificarsi, di guardarsi. Erano uguali a lei, ma quasi più gentili, con delicati gesti di omaggio, come questo Luca Scotti di Arcangela, mite, intrepido, casto e fedele. Sulla punta del giorno, rincasata alla mantovana, il sonno finalmente goduto si presentava con strampalate lucidezze di ragionamento. scorrente come da un bozzolo di sete inesauribile e ricco, ragionamento pietoso che valicava i limiti naturali dell'età per raggiungere una saggezza da limpida vegliarda. Poveri uomini, anche loro, travagliati di arroganza e di autorità, costretti da millenni a comandare e a cogliere funghi velenosi, queste donne che fingono di dormire al loro fianco e stringono fra le ciglia seriche, al sommo della guancia vellutata, recriminazioni, voglie nascoste, segreti progetti, un senso di indulgenza diffusa, allegra come un volo, la faceva nel sonno sorridere. Nel sonno il sorriso è quasi difficile come il pianto e bisogna liberarsene. Ma io dipingo, scopre Artemisia risvegliandosi, ed è salvata. In fretta il contadino liquida nel solicello acquoso di settembre la trebbiatura di un grano interrato e tarmato. In fretta coglie e schiaccia quei pochi grappoli. Mai la terra è parsa così raggrinzita, bitorzoluta, una vecchia ingrata terra su cui la mano stanca di una divina indifferenza lascia cadere brusche, ruvide carezze. E la pioggia cade, ciecamente illudendo di lavare e purificare, diabolico strumento invece per intridere laggiù fango e stracci, minute ossa di legno, bistorti metalli, tritumi di vetro, torta delle rovine su cui già si incidono sentieri per il cammino quotidiano degli uomini immemori. Il gioco del tempo è scoperto. Noi siamo dalla parte del meccanismo, grossolano apparecchio arrugginito e indistruttibile, di cui solo l'incanto è rotto. Inutile il pane, il lume per andare a letto. Quanto, dunque, la carta, la penna e un antico pennello e la piccola mano che lo reggeva, lentiginosa sul dorso, secca nella palma, simboli senza ascensione, semi che la terra non restituisce. Vedo benissimo il mio corpo agire e nutrirsi. È un padrone attivo, ostinato, un duro padrone a cui non si sfugge e di cui non intendo gli scopi. Non crede a nulla costui, se non alla propria continuazione e come a una sciocca speranza di immortalità feriale. Ma morirai, insinua lo spirito prigioniero, divenuto così maligno da divertirsi al brivido che lo percorre, perché lo spirito è con i morti ormai e non c'è nulla che gli ripugni più della fatica di provvedere, prevedere la vita. Come messaggio all'avvenire, non rispetta un testamento e il testamento che Artemisia mi detta è nullo. Potrei vedere accanto a me, sull'erba ancora rintronata dal cannone, il manoscritto perduto, con tutte le sue macchie, i suoi nei. Mi annoierebbe percorrerne un rigo. Ma un prigioniero deve trastullarsi in qualche modo e i miei trastulli scarseggiano. Ho solo una bambola da vestire e spogliare. Spogliare soprattutto finché appaia il chiodo che ha fisso in mezzo al petto e quelli che le assicurano i capelli alle tempie. Se Artemisia fosse ancora un fantasma e non un nome pesante, stravagante, fremerebbe alle mie divagazioni irrispettose. Il marito di Artemisia da piccolo già trafficava noci, medaglie di stagno benedette, mastice per le pentole rotte, statuine di cera per incantesimi e ogni genere di bagatelle. Tutto metteva in mostra sul gradino della soglia di casa e Artemisia, ancora bambina e già sua casigliana, ci sputava sopra, dalla finestra. Di lei Antonio aveva paura, come del diavolo, e se alzando in su le ciglia gli veniva fatto di scorgerla, era un arraffare tutti i suoi tesori, un nasconderli nel sacco che sempre gli era al fianco, palpitandogli le narici per l'emozione. Non vendeva, ma figurava di vendere, o barattava, tremando, con coetanei rissosi. Quei baratti finivano un giorno o l'altro in baiocchi ed erano lo spasso della ragazzaglia. Prese a proteggerlo padre Agatone Cappuccino. Passò ai Camillini, ai Filippini, vestito di lungo, con cottarelle sdrucite, lattughette sporche. Si fermò alle scuole pie più di 2 anni. Gli insegnarono a contare e il padre cominciò a vantarsene, mentre prima, quando venivano a dirgli che era scomparso di scuola o rimaneva fuori di casa giorni e giorni, si contentava di maledirlo senza scomporsi. Tanto si ingegnavano gli stiattesi, che seguivano i gentileschi in ogni casa che quelli mutassero, alloggiati ora in soffitta, ora in cantina, ora in capannucce dalla parte dell'orto, e sempre per carità. 4 figliuoli, e Artemisia neppure li distingueva, salvo Antonio, che cresceva e sbiancava. Non ne trattava nessuno, avvezza a beffarli e a sentirli beffare, ma nella sua testa figuravano come parenti disonorevoli, parenti tuttavia, anche se non le avessero mai detto come e di qual grado. A San Spirito, dopo lo scandalo, avevano alzato la testa. Si erano infilati a pian terreno in una stanzaccia, un giorno amici, un giorno nemici di Tuzia, tutti insieme custodi della svergognata, come gli altri chiamavano Artemisia. Stavano quei ragazzacci sempre dentro o fuori del portoncino, giocando e urlando, disegnando porcherie col carbone sul muro. Il padre fingeva di coltivare ortaggi dietro casa, ma era sempre fra preti al suo solito. La madre tossiva. A quel tempo Antonio era sparito. Ma quando Orazio ebbe detto alla figlia «ti devi sposare», eccotele una mattina, pettinato, in giubbone nuovo, e passeggiava sotto le finestre, come aspettando. Tutto era pronto a Santa Maria in Aquiro, una parrocchia un po' lontanetta che nessuno riconosceva. «Vestiti delle feste», fece Orazio alla figlia che accendeva il fuoco, e lei, che da tempo cercava nei panni neri rifugio e garanzia, di nero si vestì, che non sapeva di doversi sposare. Sulla soglia, tanto che non usciva, il riverbero del selciato l'abbagliò, e tra le ciglia battenti vide Antonio, altissimo e smunto, e tutta la famiglia stiattesi rivestita, meno Grazia, che era allettata. Si avviarono. Forse i vicini sapevano qualcosa. Si sentiva come un sussurro in un silenzio sospeso. Qualche scrocco d'imposta faceva pensare a un affacciarsi furtivo. Andavano in fretta, sbandati. Quando furono al ponte, che nessuno poteva più vederli, si raccolsero senza parlare. Non parlava Antonio. Smemorato, andava avanti, che aveva le gambe lunghe. Il giubbone nuovo era ricco, ma non fatto a suo dosso, e gli cadeva sulle spalle, mentre sui fianchi si irrigidiva a spigoli. Portava la testa scoperta e il cappello in mano, un feltro largo con la penna berrettina che spazzava la terra. Un ciuffo di capelli biondicci, opachi, gli si rizzava sul cranio e il vento, passandoci, lo scomponeva in ciocche irte. Aveva speroni agli stivali che tintinnavano. A momenti si fermava ad aspettare il gruppo e volgeva un po' la testa, ma senza guardare. Gli si vedeva uno spicchio di guancia cascante e il naso corto. Si fermò quando Gervaso e Protaso, i due gemelli, si incapricciarono di pan pepato che un venditore offriva. E quando il padre incontrò un benefattore e stava a testa china, la mano al petto come un'immagine, inclinò il capo sulla spalla destra in attitudine rassegnata. Parve un cavallo che per dormire sospenda una zampa. Orazio guardava a occhi socchiusi verso Palazzo Farnese. I ragazzi si ingrugnavano e Artemisia si tirava sulla fronte la pezzola. Sorrise Antonio? O non sorrise in sacrestia, mentre si cercava il curato e gli sposi erano soli, faccia a faccia. La luce spioveva di sghembo da una finestra spericolata e il viso di Antonio si increspava come un'acqua morta, brividi sul ciglio, agli angoli della bocca, per le narici. Da ragazzo lo chiamavano il coniglio. Poi la minima burrasca si spense e i tratti ritornarono opachi, leggeri, una maschera vuota. All'altare, in ginocchio sui gradini, la sposa toccò una mano fredda e umida. Ne ebbe un anelletto d'argento, infilatole con studiosa imperizia, mentre il lungo dorso di Antonio si curvava e il petto si incavava come per grave fatica. Ma senza inclinarsi e a mano libera firmò rapidamente sul libro parrocchiale «Antonius, stia attesi», e ci sparse sopra il polverino che Artemisia trovò sotto la penna quando venne il suo turno. Uscirono da una porticina, non rientrarono in chiesa e subito Orazio lasciò la compagnia senza spiegazioni. Alla rotonda i gemelli si spersero dietro un cantastorie. A Sant'Eustachio Fabrizio abbracciò un tale che sembrava un soldato e rimase con lui. Antonio andava sempre avanti, come era venuto, con quelle gambe senza misura, e Artemisia, più ristretta che mai nelle vesti nere, camminava staccata dal suocero che scatarrava e sputava. Passò un cataletto con le torce. Due donne si picchiavano al canto della sapienza. Più in là un ciarlatano mostrava uccelli ammaestrati. Senza accorgersene, Artemisia rallentò il passo, si incantò un pochino e quando si riscosse né il tabarro del suocero né il giubbone verde del marito erano più alle viste. Ritrovò il vecchio in banchi, fermo a parlottare con un pellegrino, ma Antonio, per qualche anno, non doveva più vederlo. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.